Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Parleremo dei temi anche di giornata, piano all'Italia, l'annuncio dello sciopero da parte dei sindacati, ma anche stiamo attendendo conferma sulle nomine. Oggi dovrebbero arrivare, non si capisce ancora a che ora esatta, le nomine delle aziende partecipate al Ministero del Tesoro, quindi Eni, Enel, Finmeccanica in primis, a partire dagli amministratori delegati, poi anche i presidenti. E poi vedremo anche il giro delle altre, di quelle non quotate. Oggi è venerdì e quindi torna la classifica di Focus Economia sugli sprechi di denaro pubblico della pubblica amministrazione. Per quello che riguarda invece la borsa, adesso vi arriverò tra un attimo, ma segnalo che c'è anche il G20 a Baden-Baden, non è uscito molto, insomma c'è un po' di preoccupazione sul neoprotezionismo. Ma insomma mi sembra per ora che siamo ancora molto molto alla retorica. Gli sherpa cosiddetti, cioè chi fa il lavoro preparatorio, non ha risolto, non ha trovato una mediazione sui temi legati al protezionismo, perché invece ci dovrà essere un comunicato netto di in qualche modo critica al protezionismo commerciale, ma gli Stati Uniti, non a caso, visto che Trump è l'alfiere di questo neoprotezionismo, vogliono invece lasciare la porta aperta a un comunicato più morbido. La Germania ha minacciato, a poche ore dalla visita di Angela Merkel con Donald Trump, ha minacciato un ricorso presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio contro gli Stati Uniti se dovesse entrare in vigore la border tax, quindi quella promessa dal presidente americano, in particolare sulle auto prodotte in Messico. E lo ha confermato lo stesso ministro dell'economia Brigitte Tsipras. Secondo il centro studi tedesco IFO, il piano di dazi Donald Trump minaccia 1.600.000 posti di lavoro in Germania, visto che l'export tedesco verso gli Stati Uniti ammonta a 106 miliardi di dollari l'anno. Se fossero colpiti con una tassa del 20% e la metà dei costi fosse a carico degli acquirenti, 10 miliardi di euro peserebbero sugli esportatori tedeschi, anche perché in Germania un lavoratore su due lavora di fatto verso l'export. Il ministro Padoan, presente a Baden-Baden, dice attenzione, speriamo in un accordo sul sistema globale aperto, ci sarebbero benefici per tutti. Ma la vedo dura vista la posizione americana in questo momento. Tra l'altro, e ne parleremo più avanti, oggi il dato sul commercio con l'estero che riguarda l'Italia è di nuovo un ottimo dato. A gennaio l'export è cresciuto del 13,3% rispetto a un anno prima, trainato soprattutto dai paesi extra Unione Europea, a dimostrazione che la crescita c'è, ed è l'aumento maggiore dello scorso agosto. Le destinazioni: Cina più 36% ha fatto il nostro export a gennaio, Giappone più 29%, Russia più 39% nonostante le sanzioni, Stati Uniti più 36%, OPEC più 4,7%, poi bene anche l'area europea, l'area euro, più 9,6% il nostro export in Germania, più 7% in Francia, più 7,5% in Gran Bretagna, più 12% in Spagna, a dimostrazione che di tutti i problemi che possiamo avere a livello di modello produttivo non abbiamo il problema delle esportazioni. E lo dico con una punta di polemica, con buona pace di chi continua a dire torniamo alla lira così esportiamo di più. È l'unica cosa dove stiamo andando bene, mancano i consumi interni e quindi il potere d'acquisto che non crei svalutando e con la liretta. Allora, la vicenda dei voucher ne parleremo, perché lo dico senza se senza ma, la calata di braga del governo nei confronti del referendum è stata obiettivamente inspiegabile. Cioè, a sto punto, e oggi vedo che sulla stessa linea sono sia la CISL che la Confcommercio, a sto punto è meglio andare a votare, perché in questo modo, con dichiarazioni che poi ascolteremo che sono di un vago totale, sia da parte del Premier Gentiloni che del Ministro Poletti, sì adesso ragioneremo su uno strumento a regolamentazione, quando, come, Poletti è anche arrivato a dire Terremo conto anche delle novità tecnologiche intervenute, ma quando? Mica nell'ultimo mese, mica negli ultimi 2 mesi. Cioè gli smartphone esistono da un po'. Quindi è tutto un arrampicarsi sugli specchi per non ammettere che, piuttosto che andare al referendum e vedere e contarsi, strumento legittimo, ci mancherebbe, contarsi e vedere chi era per l'eliminazione totale dei voucher e chi invece per un mantenimento pur con delle modifiche stringenti sulla loro applicazione, quindi senza gli eccessi e gli abusi, si preferisce eliminare direttamente i voucher. È a mio avviso una sindrome da 4 dicembre, cioè adesso a questo punto ogni volta che c'è un referendum sappiamo che il governo potrebbe eliminare la legge prima di andare a vedere che cosa ne pensa il paese, tra l'altro riportando nel nero, visto che la legge sui lavori occasionali e saltuari non c'è ancora la regolamentazione, riportando nel nero dal 31 dicembre tutti quei lavoretti che venivano regolamentati anche con garanzie INPS e INAIL dai voucher, questo al netto degli abusi sulle ore utilizzate. La borsa, vedo già molti messaggi, 349-238-6666 è il numero per gli sms e whatsapp, e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. La borsa, dicevo, invariata Milano, invariata Parigi, invariata Francoforte e invariata Londra, mi sembra abbastanza invariata, quindi oggi è una giornata che archiveremo in breve. Luxottica più 2, Campari più 1,80 come Telecom Italia, Brembo più 1,50, Ubi più 1,40, Poste più 1%, fronte opposto Leonardo meno 2,51, meno 2%, Case New Holland meno 1,30, Enel meno 1,30, anche Ferrari meno 1,20, Saipem e Prismian, Buzzi Unicem meno 0,90%. C'è il caso in borsa del Sole 24 Ore, questa volta in positivo, più 10%, allora RCS Media Group più 7,90, ma qui c'è notizia, ossia il gruppo di Zoe Corriere della Sera è tornato in utile, e ben venga, visto che insomma apparteniamo allo stesso settore, nell'esercizio 2016 ha fatto 3 milioni e mezzo di utile contro i 175 milioni nel 2015 di perdita, però vede gli utili in crescita anche nel 2017 il gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Per quello che riguarda il Sole 24 Ore invece, qui c'è l'ipotesi smentita poi, ma insomma circolata oggi in un articolo, di un interesse di Vivendi, quindi Bolloré, nei nostri confronti, oui messier, ma in realtà non c'è nessuna conferma, anzi nell'articolo, se ben letto, veniva citato in maniera molto esplicito il no ricevuto, diciamo, dall'azionista di riferimento, che è Confindustria, per un interesse di Bolloré per entrare nel Sole 24 Ore dopo l'ingresso che ha, dopo la quota di maggioranza relativa che ha in Telecom Italia e la scalata ostile fatta a Mediaset. Evidentemente la borsa ci specula, il titolo adesso guadagna un po' meno, ma comunque l'8,33%. 349, dicevo, 238-6666 per sms e whatsapp. Rapidamente le altre notizie in breve. Che oggi riguardano soprattutto una cosa, riguardano soprattutto l'Alitalia, perché del resto abbiamo già detto. Allora, gli esuberi sono 2037, fra il solo personale di terra, questo è previsto nel piano di rilancio di Alitalia presentato oggi ai sindacati. Dal 2019 invece verrebbero assunti 500 unità per il personale di volo, quindi assistenti di volo e piloti, quindi 2000 esuberi nel personale di terra e 500 invece assunzioni nel 2019 però per il personale di volo. Nel 2019 arriverebbero anche 8 nuovi aerei per una decina di nuove rotte a lungo raggio. Il piano non piace ai sindacati, che confermano lo sciopero unitario il 5 aprile. Ma già da lunedì l'Italia cancellerà il 40% dei voli per un'agitazione di alcune sigle sindacali dei controllori di volo dalle 13 alle 17 e per l'intera giornata del 20 marzo con due fasce garantite dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. E i sindacati insistono: con questo piano siamo pronti, la mobilitazione è indigeribile, no a ricatti e no a ultimatum. Mi fate notare che non ho detto i peggiori, vabbè, poi li diamo 18 alla fine. Comunque, Bom Italia meno 5,80, Gala meno 4,20, Parma meno 3,60, Salini Pregilo meno 3,60%. Allora andiamo subito con la poco invidiabile classifica che riguarda, lo dico prima di rispondere alle polemiche, lo spreco di denaro pubblico. Oggi c'era tanta roba, ma vorrei partire da un caso che non abbiamo messo al quinto posto, però la voglio leggere comunque, perché in realtà non è uno spreco, ma riguarda, cioè, una descrizione di come questo paese funziona. Allora, la città è Roma, dove chiunque di voi abbia dimestichezza con Roma sa che il problema delle buche del manto stradale non ha paragoni nel resto dell'Italia, delle metropoli, diciamo, per l'Italia perlomeno che vorrebbe essere un'Italia cosmopolita e internazionale. Buche dovunque. Che cosa succede? Allora, c'è una signora, una 68enne di Roma, a novembre, si chiama Maria Rita, fa l'architetto, sta percorrendo viale Tiziano Terzani, grande giornalista, grande scrittore, inviato di guerra, all'interno di Villa Torlonia. Con lei al guinzaglio c'è il suo cagnolino. Cade la pallina del cagnolino, non sono ubriaco, cade la pallina del cagnolino con cui stavano giocando. Sale su una delle aiuole di Villa Torlonia per raccogliere la pallina. Dopo pochi passi sprofonda all'improvviso in una buca coperta da erbacce. Non era segnalata, non si vedeva, accanto c'era un tombino. Chiama col cellulare perché è dentro la buca. Arrivano i vigili e sapete che lei viene anche ricoverata, si fa medicare in ospedale. Sapete cosa succede? Quando in un paese normale, signora, grazie, meno male, poteva caderci un bambino, una signora ancora più anziana, una mamma con un passeggino. No! 160 euro di multa più 13,90 per spese di notifica. Perché? Perché ha calpestato l'aiuola. La classifica della settimana. Ah, ma io dico ai pizzardoni, come si chiamano i vigili a Roma, ma è normale, recintate, lei chiama per evitare che qualcuno ci caschi, recintate la iola e la multate per 175 euro. Va bene, andiamo sugli sprechi veri e partiamo da una cosa che immagino farà aumentare il gradimento della nostra classe politica. Parliamo dei voli di Stato, anche qui. Non sono tanti soldi quelli di cui stiamo ragionando, però qualche centinaia di migliaia di euro, sì. Dunque, i voli di Stato, al di là della polemica sull'aereo, io ho trovato quella polemica veramente, quella sì, populista, perché un aereo che deve fermarsi ogni volta a fare rifornimento, parlo dell'aereo del Presidente del Consiglio, non ci trovo nulla di strano che un Presidente del Consiglio voli con un aereo che è adatto al lungo raggio, se deve rappresentare l'Italia in giro per il mondo, no. La cosa interessante sono non tanto anche gli utilizzi della flotta blu, e quindi, diciamo, i voli di Stato sono 428 volte nel 2016. Ma perché ne parliamo? Perché qualcuno avrà sentito parlare della Consip in sto periodo, insomma. Ma questa volta non c'entra Romeo, non c'entra il rapporto di Romeo con Lotti, di Lotti con Marroni, chi ha ragione tra i due e quello che è successo in Parlamento negli ultimi due giorni. No, qui la Consip, perché la Consip gestisce la centrale acquisti della pubblica amministrazione, gestisce anche i pasti, la ristorazione a bordo degli aerei che trasportano 428 volte l'anno scorso i membri del governo. Ora, qui c'è una storia che se ve la leggo tutta impazziamo, perché... Ma ve la faccio molto breve. Fino a qualche anno fa il servizio di ristorazione a bordo degli aerei che trasportavano gli esponenti del governo o altre alte cariche dello Stato, più ogni tanto ospiti ci sono, era affidata a una società di Fiumicino che aveva vinto la gara d'appalto e che riforniva i velivoli con cibo di alta qualità con un costo di 40 euro a pasto, che non è pochissimo per un pasto su un aereo. Tant'è che in questi anni nessuno si è mai lamentato dei membri del governo, dei governi precedenti, no? Né del governo Letta, né del governo Monti, né dei governi Berlusconi, né dei governi Prodi. Non mi sembra di aver ricevuto lamentele. Nessuno ha avuto casi di salmonellosi, vomito, diarrea, insomma, nessuna malattia intestinale. Cioè, funzionava benissimo, anche perché 40 euro a pasto non è proprio nulla. Allora, poi però la carica di capo nucleo voli del raggruppamento Unità Difesa presso l'ufficio voli di Stato era ricoperta. Tutto questo funzionava finché la carica è ricoperta da un militare dell'aeronautica, militare del ruolo piloti. Invece, con l'assegnazione dell'incarico al colonnello dell'Arma Azzurra Valerio Celotto nel 2015, appartenente al ruolo commissari, che fino a quel momento non aveva esercitato la gestione di attività operativa dei velivoli, insomma, la spesa sale. Allora, la nuova gara d'appalto viene affidata alla Consip, e la Consip la indice e la vince la Sky Service, società di Napoli. Adesso non è che ogni volta che dico Napoli uno deve pensare all'inchiesta di Woodcock, a Romeo, così. Però ho detto Napoli, che è riuscita a ottenere il risultato proponendo il catering di bordo per gli aerei a 100 euro a pasto. Ora, io voglio capire come fa la Consip a fare una gara per un servizio che veniva erogato a 40 euro e la fa vincere la Sky Service di Napoli per un servizio che viene erogato a 100 euro. Ma sono capace anch'io di fare la gara così. E se c'era uno che offriva 400, vinceva quella a 400. Allora, 100 euro, prezzo che tuttora viene applicato. La cosa mi fa ancora più, così mi rende ancora più sospetto, che la Sky Service a sua volta non cucina lei, no? Subappalta la commessa a 50 euro a pasto. Vedi che il pasto costa sui 40-50 euro? Alla società Villa degli Angeli, con sede a Ciampino. Quindi la vince la Sky Service di Napoli, che però subappalta alla società Villa degli Angeli, con sede a Ciampino, e ci guadagna praticamente 50 euro. Un guadagno di 50 euro per unità. Ora, con 428 voli, immaginando sopra, il pilota ci deve essere, il personale di bordo ci deve essere, il ministro ci deve essere, portavoce, segretario, capo di gabinetto ci devono essere, se ci sono qualche ospite, non so, uno vuole un passaggio, perfetto. Ma insomma, fatevi voi un calcolo. Ma poi soprattutto perché? Tra l'altro, il conferimento dell'incarico a Celotto, a Valerio Celotto, per il quale si punterebbe una veloce promozione a generale, era stato consigliato dal generale Graziano all'epoca in cui sottosegretario alla presidenza del consiglio era Luca Lotti, pare su suggerimento del comandante generale dell'arma Tullio Del Sette. Sia Lotti che Del Sette, faccio notare, ma siamo, questa è cronaca, sono indagati nell'inchiesta Consip. Ora la domanda vera è: che cosa mangia? Abbiamo una cosa melodica, diciamo un violino, perché l'altra volta l'abbiamo usata. Che cosa dai da mangiare con un carico di 100 euro, anche se poi a te costa 50? Certo che uno che vince una gara d'appalto e ottiene il 50% di margine sul servizio offerto, ma ragazzi, ma questa è la Svizzera, o meglio, anzi no, in Svizzera sono più seri, questa è l'Italia. Allora, perché volevo raccontare prima della pausa, e poi andiamo al quarto, terzo e secondo posto, che cosa mangiano le cariche dello Stato che volano sugli aerei di Stato. Adesso con calma me la date, perché una cosa così morbida, no, siamo pieni, Chopin, qualunque cosa che vuoi, qualunque cosa, vediamo se arriva. Oh, ce l'abbiamo. Non male, vabbè. Allora, solo per fare qualche esempio, con 100 euro, di cui 50 pasto, che cosa mangiano? Si può scegliere tra canapè super VIP, caviale aragosta, sandwich VIP, salmone affumicato VIP, c'è qualcosa in un VIP, prosciutto e melone con ovolina di bufala, spiedini di mazzancolle, tagliolini all'astice, ravioli con salsa tartufata e noci, gardenie di spigola, astice reale al gratin, scampi imperiali grigliati, tonno in crosta di sesamo, aragosta, kebab, kebab però mi abbassa tutto, comunque, kebab, pasticceria secca, tiramisù, saker, colazioni vegetariane calde e fredde e lunch box per tutti i gusti. Oh, io spero che nessuno delle cariche, delle altre cariche, lo soffra di mal di aereo, perché insomma con questa roba uno si sente quasi male. E comunque, tornando a essere seri, qualcuno mi può spiegare com'è che la gara d'appalto per i voli di Stato costa il doppio, grazie alla Consip e alla gestione del colonnello Valerio Celotto, che immagino mi scriverà, minacceranno querele, come sempre, ma io voglio sapere perché da 40 euro si è passati a 100 per una società Sky Service che in realtà subappalta il servizio a 50. Non è difficile, eh? 40 prima, 100 adesso, servizio 50. Meteo. Focus Economia. Allora andiamo al quarto posto, perché oggi la classifica è molto molto spuria. Dicevo, andiamo al quarto posto, dove devo prendere oggi di mira sia l'ATAC, non è la prima volta che l'AMA, ma sono due cose dell'ATAC che abbiamo parlato. Penso che sia forse la società che è più entrata in questa classifica nel corso degli anni, la municipalizzata più grande d'Europa, che perde un dettaglio, 1 miliardo e 300 milioni di indebitamento, perdite strutturali nell'ordine di 70-100 milioni di annui, un servizio giudicato pessimo dal 65% dei cittadini romani, e abbiamo anche raccontato il rapido allontanamento del direttore generale che bene aveva fatto Rettighieri, si chiama, se non ricordo male. No, ma la dico, unisco questa all'AMA, che invece è la municipalizzata di Roma per la raccolta dei rifiuti. Ci sono due casi pazzeschi. Allora, secondo voi, una società che ha 12.000 dipendenti, ma appunto ha 1 miliardo 300 milioni di perdite, 70-100 di debito, 70-100 milioni annui di perdite, andrà a stringere 24 milioni di biglietti venduti in meno l'anno negli ultimi 6 anni, meno 18%. Ora, insomma, che cosa farà? Starà a controllare tutto, le forniture, gli pneumatici? No, ha appena reintrodotto un istituto che era stato levato, che si chiama istituto del servizio riservato al personale Metroferro, firmato il 20 dicembre con i sindacati. Che cosa è questa roba? Beh, è il servizio con cui la società dei trasporti di Roma trasporta gli autisti che servono per trasportare i cittadini. L'hai capito così? No, non sei capito? Allora, no, dico in regia. Allora, praticamente questo vuol dire che l'ATAC spenderà 600.000 euro l'anno per trasportare 17 autisti, 17 persone al giorno sul posto di lavoro. Si tratta di trasportare gli autisti dei tram a inizio e fine turno. Ma perché? Cioè, ho capito, è un servizio in più. Va bene, è un servizio in più che dai come benefit se vai bene. Ma se hai un problema anche sugli autisti, l'ATAC, in cui ne abbiamo raccontato mille volte, percorrono molto meno ore dei corrispettivi milanesi, napoletani, quant'altro, ma che li trasporti pure? Io non ho mai visto una società di trasporto che trasporta l'autista che deve trasportare. È il metatrasporto. E meno male che l'hanno fatto notare i radicali italiani di Riccardo Maggi e Alessandro Capriccioli. Questo fa il paio con l'AMA. ATAC e AMA possono viaggiare in coppia, alcune cose. Allora, io mi chiedo, ma in quale paese tu introduci una norma per fare lavorare di più i dipendenti e tutti i dipendenti sono più contenti, a meno che la norma per fare lavorare di più i dipendenti non permette ai dipendenti di lavorare di meno? Guardate, sì, mi fa notare qualcuno che i 17 autisti al giorno forse conveniva prendere un taxi. Immaginate l'autista dell'ATAC che per andare al lavoro usa il taxi. Bellissimo. Comunque, allora, il direttore generale di AMA, qui parliamo di AMA, si chiama Stefano Bina. Lei, l'amministratrice unica, si chiama Antonella Giglio. Allora, e hanno 7.800 dipendenti nella municipalizzata dei rifiuti. E allora che cosa fanno? Aggiungono all'orario di lavoro 2 ore. Festeggiano tutti. Allora vedi che cioè, tutti i piccoli nipotini di Stakhanov. No, non è così, perché l'accordo fatto con i sindacati è un pochino diverso. Allora, si ottimizzano le 8 ore di impiego, di impegno mensile in più, 8 ore in più di lavoro. Grazie alla trattativa con i sindacati, gli stessi sindacati che hanno all'ATAC reintrodotto il trasporto dell'autista, ma è come se ci fosse un aereo che, vabbè, siamo zitti, dai. Si è trasformato, grazie alla trattativa con i sindacati, in un indubbio vantaggio per i lavoratori e invece un passo indietro per l'utenza, ma l'utenza chi se ne frega adesso, stiamo a non prendere scatole con l'utenza. Allora, sono passati da 36 a 38 ore settimanali, ma nella sede centrale, via Calderon della Barca, come molte altre dislocate in città, l'effetto svuotamento è diventato palpabile. Praticamente, improvvisamente, tutti possono uscire invece che alle 17 alle 15.55 e alle 13.55 di venerdì. Ah, dice, ma ascolta, ma mi spieghi come fai a aumentare le ore settimanali e io esco prima? Perché? Perché la firma con le 3 sigle confederali, la FIADEL, Federazione Italiana Autonoma dei Dipendenti degli Enti Locali, allora arretrano l'ingresso in ufficio dalle 8 alle 7.45, però dal punto di vista dell'efficienza, adesso vi spiegherò perché, non vale nulla. Introduce una pausa pasto breve di 10 minuti rispetto all'ora canonica. Adesso anche lì, ma come fai a mangiare in 10 minuti quello che mangiavi in un'ora prima? Non si capisce bene. Comunque, poi la Giglio era molto perplessa da questo accordo e a questo punto, se tu accorpi queste pause, cosa succede? Perché a me quello che interessa è l'utente, contrariamente alla battuta. Il nuovo assetto prevede 8 ore di lavoro da lunedì a giovedì e 6 ore il venerdì, però in questo modo tu timbri, vai via, come ha spiegato un comunicato, alle 15.55 nella giornata ordinaria e alle 13.55 il venerdì. Siccome poi ci sono 5 minuti di tolleranza in uscita nel caso di coda, 10 minuti di vestizione all'arrivo, 15 minuti di svestizione all'uscita, in realtà tu puoi uscire anche alle 15.45. Sapete che poi è successo? È successo che gli sportelli, che prima, dove prima si poteva, gli sportelli della Tari, roba per noi cittadini che paghiamo la Tari, dove prima potevi accedere fino alle 17, adesso l'apertura si ferma alle 15.30. Sono nei guai anche i cimiteri del Verano di Prima Porta, perché dice anche un taglio lavoro straordinario. Ora, se tu accorci l'orario di uscita al cimitero, devi anche metterti d'accordo con i tuoi clienti. Per cui, per favore, a Roma, se uno deve proprio tirare le cuoia, cerchi di farlo dal lunedì al venerdì entro le 15.55 e dal lunedì al giovedì, e se devi proprio crepare il venerdì per non rompere le palle alla gente che lavora e va via per il weekend, cerca di crepare entro le 13, va bene? Tutto ok? Oh, qui vado a Palermo, terzo posto. Terzo posto, questo invece c'è poco da ridere, perché alla faccia della società civile, che sembra che politica sono tutti là della società civile, no, la società civile o la classe politica rispecchia di solito anche a livello di una comunità la società civile, e qui parliamo di società incivile. E andiamo a Palermo, dove continua a essere presente il traffico di permessi per gli invalidi. Io dico, è una cosa così schifosa, così come parcheggiare al posto degli invalidi è schifoso, fotocopiare o utilizzare il pass degli invalidi è schifoso, perché voglio dire, tocchi un diritto di persone che ne hanno veramente bisogno e sei un incivile. Ma sapete qual è la pratica che hanno scoperto? Ne hanno beccati parecchie, perché i permessi invalidi erano 16.500, sono scesi a 13.000. Allora, il pass auto per disabili sto citando. Hanno beccato solo l'anno scorso 870 titolari di pass auto per disabili che erano morti. Ma la cosa che mi manda in bestia è la giustificazione, la raccontano i vigili di Palermo, la polizia municipale, quando li fermano, perché vanno a fare i controlli per fortuna. Allora, la prima risposta è: no, ma il titolare del contrassegno, l'invalido vero, è appena sceso dall'auto. Quando gli fanno notare che è sceso dall'auto un bel po', ma è anche sceso, diciamo, è anche salito, oltre che sceso dall'auto, salito a miglior vita, A quel punto tirano fuori i fazzoletti, piangono, non abbiamo avuto ancora il tempo di riconsegnare il permesso, ma vergognarsi ogni ma le mamme e i papà insegnano ancora la vergogna in sto paese? Allora, poi tagliandi duplicati, smarriti, dichiarati smarriti invece erano duplicati, pass falsificati o fotocopiati. Poi c'era il caso più eclatante, quello della principessa, vorrei però anche il nome, mi manca il nome della principessa, che posteggiava la sua smart in pieno centro sulle strisce gialle grazie alla fotocopia a colori di un permesso disabili. Brutta, strana la principessa, concesso al marito. E ancora due fratelli, lui avvocato, lei burocrate della regione siciliana, che avevano duplicato il permesso H, intestato alla madre. Sono appena stati rinviati a giudizio, sia l'avvocato che il burocrate della regione siciliana. Stanno calando leggermente i casi, ma ripeto, la pratica è ancora vergognosa, se ne hanno beccati quasi 1000 solo l'anno scorso. Andiamo sul traffico. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, al secondo posto andiamo sul... Questa non mi era ancora capitata. Il casello fantasma. Potrebbe essere un film dell'horror, il casello fantasma. Prossimamente al cinema. Allora, è un casello in realtà pronto, manca una firma per aprirlo. Il problema è che è pronto dal 2000, da metà del 2016. Ed è un casello importante perché è un casello che serve un'area industriale in Puglia, in provincia di Foggia, la A14. Il casello si chiama Foggia Zona Industriale, costato 780.000 euro di spese anticipate dalla società Autostrade. È un moderno casello autostradale automatizzato, ma tra l'altro fornisce un'area industriale che ospita, tra gli altri, lo stabilimento Leonardo ex Finmeccanica Alenia, dove fanno aggrottaglie e una parte della fusoliera del Boeing 787, il Case New Holland Industrial del gruppo Fiat Chrysler, Barilla, Princess, il più grande conservificio d'Europa, insomma, più tutto un insieme di indotto, aeronautica, pasta, motori, pomodori, camion e tir che passerebbero in maniera costante. E invece, tra l'altro poi a fine novembre lì ha inaugurato anche Granda Puglia, il più grande ipermercato della Puglia, quindi sto cavolo di casello serve. Niente, che è successo? Autostrade per Italia ha anticipato i soldi, però poi siccome non si fidava ha detto aspetta un attimo, prima mi faccio dare, perché io le anticipo, ma voglio vedere i soldi dal comune di Foggia. E male non ha fatto, perché in una lettera inviata al comune di Foggia a settembre 2016, Autostrade per Italia dice guardate che abbiamo ultimato i lavori, ma il comune di Foggia dice non possiamo pagarvi l'impossibilità di corrispondere il contributo previsto dalla convenzione causa chiusura del bilancio 2016, verseremo tutto nei primi mesi 2017. Così non avviene. Ma anzi, adesso il comune di Foggia dice che la quota la verserà, però non è più di 778.000 euro, ma di 518.000 euro, perché gli altri 260.000 euro li deve dare la provincia di Foggia. A quel punto la provincia dice: no, noi non ci stiamo, era un protocollo di intesa, era solo un impegno politico. Io non voglio pagare, nessuno mi ha mai coinvolto, dice il presidente della provincia. Se mi sottopongo una documentazione ulteriore che mi dimostra che la provincia può pagare senza incorrere nella Corte dei Conti, pagherò. A quel punto cosa risponde il comune di Foggia? Se la provincia continuerà a negare la quota, conclude il sindaco Landella, il comune pagherà tutta la somma e aprirà un contenzioso con la provincia. Aprite il casello e basta, e poi ve la regolate. Ma il problema è che dal 1 aprile il casello non potrà essere comunque riaperto, perché nei 6 mesi trascorsi hanno devastato il casello i furti di rame, rom, immagino, prima ancora che venisse inaugurato. Occorreranno quindi altri 30 giorni per ripristinare le condizioni di pieno esercizio e poi, scusatemi, almeno l'estate, quindi a 6 anni esatti dalla firma della convenzione per la costruzione di sto cavolo di casello. Qualcuno mi dice che l'aumento per i pasti sui voli di Stato è del 100%, guadagna rete ragione, certo. Andiamo all'ultimo posto in classifica, vai. And the winner is... Insomma, c'era l'imbarazzo della scelta, però the winner is oggi... potevamo mettere anche Finlombarda con quello che sta emergendo nell'inchiesta di Finlombarda, però visto che la sanità ci sta a cuore, mettiamo Angelucci, il re delle cliniche romane, indagato per traffico di influenza. Tre tranche di inchiesta: Maurizio Ferraresi, dirigente dell'ASL, ASL Roma 1, è responsabile della commissione patenti. Secondo l'accusa, sarebbe protagonista di almeno tre episodi tra corruzione e turbativa d'asta, gravi irregolarità e reati che ruotano attorno al dirigente, è finito in manette al ruolo di primo piano che ricopriva nel settore sanitario. Era stipendiato, secondo le accuse, da due imprenditori titolari di studi di analisi cliniche, Mario Dionisi e sua sorella Rossella. Riceveva 5.000 euro al mese per consigliare gli studi Dionisi. Hai capito? Poi avrebbe anche aiutato questo Ferraresi, Maurizio Ferraresi, alcuni imprenditori a entrare in contatto con un altro dirigente ASD, Claudio Cascarino, responsabile dell'affidamento di una gara d'appalto da 14 milioni. Chi voleva lavorare all'appalto doveva entrare pagando a far parte di una ristretta cerchia di amici che, secondo gli inquirenti, venivano scelti da Ferraresi e Cascarino. Terza tranche dell'inchiesta. Viene indagato l'imprenditore deputato di Forza Italia Antonio Angelucci per il reato di traffico di influenze, ossia lobby illecita. Angelucci, secondo le accuse della Procura di Roma, avrebbe cercato qualcuno che intervenisse per avere una sentenza favorevole in Cassazione in merito a un sequestro preventivo. Sono ai domiciliari Rossella Dionisi, un suo collaboratore e altri quattro imprenditori. Hanno sequestrato a Ferraresi beni per 330.000 euro, mentre per il presunto profitto ottenuto dai laboratori di Dionisi sono stati sequestrati 4.100.000 euro. L'inchiesta nasce dall'ex convivente di Dionisi, la denuncia, che racconta come quest'ultimo versasse mensilmente denaro a un dirigente della ASL Roma 1. Allora, dico una cosa, prendiamo un minuto, poi la prendo dopo, se ce la faccio. Il caso Virtuoso, una proposta di legge, non so se possa, visto che le carceri sono piene di reati anche inutili. Se venissero condannati anche questi personaggi, come altri che abbiamo raccontato, per malversazione, spreco di denaro pubblico, invece che dare pene nel penale e che poi uno non sconta perché ha la condizionale, non si può convertire tutto direttamente ai servizi sociali? Cioè, in questo caso, per esempio, li fai lavorare per un po' di mesi negli ospedali, possibilmente nella parte, dove c'è la geriatria, a fare un lavoro da infermiere di base, a fare i turni notturni, li fai fare per un anno, è inutile dargli 7 mesi, 8 mesi che non li faranno mai, ma farli lavorare nei servizi sociali e vedrai che la prossima volta che devono sparare pappagalli e pulire padelle, forse ci pensano un po' di più, o no? Dai. E se li ribecchi, raddoppi la pena. 2 anni di padelle e pappagalli, poi 4, poi 5. Altro che pene, subito sulle pene accessorie, va bene. Allora, Marco Actis, buonasera. Buonasera, buonasera. Resti con noi, non abbiamo invitato in tema di padelle e chiaramente pappagalli. Resti con noi, ci sentiamo dopo il GR24. Lei è il nostro Prozac, visto che parliamo di sanità, cioè... ci rimette un po' di buon umore come ogni settimana con il caso di chi si è rimboccato le maniche e ha fatto partire un'attività in questi anni di crisi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck. Sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia. Fiera di Arezzo. 24-26 marzo. Focus Economia. 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Molti mi stanno scrivendo sul pulmino per gli autisti. Ho detto solo che un'azienda quando perde così non può permettersi 600.000 euro di spese in un anno. Non ho detto che sia sbagliato, dipende come sono messi i tuoi conti. Hai 1.400.000.000 di debito come ATAC, ne perdi tra i 70 e i 100 milioni all'anno. Allora andiamo avanti. Comunque, Marco Actis, quanti anni ha, che cosa fa e che cosa, soprattutto che cosa ha fondato? Sì, buonasera a tutti. Io ho 32 anni. Faccio l'amministratore delegato dell'azienda che ho fondato 4 anni fa e che è nata con l'intento di innovare quello che è il settore delle spedizioni, con un particolare focus alle spedizioni urbane e con un taglio decisamente green, utilizzando principalmente biciclette e veicoli elettrici. E chi vi ha dato i soldi e quanto state fatturando adesso? E cioè voi fate in sostanza, se ho ben capito, una specie di subfornitura a chi deve fare le consegne a domicilio? No. Ah, sì, noi lavoriamo sia a servizio di grosse aziende, Corriere Espresso nazionali o grandi e-commerce, o anche attraverso lo sviluppo di un mercato diretto, quindi ci proponiamo proprio come dei corrieri 2.0 con una particolare attenzione a quelli che sono i temi legati alle smart city e all'efficienza di un nuovo modo di distribuire sia con i mezzi elettrici sia attraverso l'utilizzo di tecnologia che sviluppiamo internamente. Avete intenzione di andare anche in altre città oltre Torino, Milano e Bologna, giusto? Sì, attualmente operiamo direttamente su Milano, Torino e Bologna. Abbiamo in previsione quest'anno di espanderci su Roma e Firenze e poi ovviamente proseguiremo nella costruzione e nel completamento di questo progetto. Chi vi ha dato i soldi e di quanti soldi avete avuto bisogno all'inizio e quanto fatturate? Ma allora, siamo partiti con poco, perché veramente siamo partiti acquistando una bicicletta, iniziando a testare l'efficacia di quella che era l'idea embrionale. Dopodiché, attraverso un percorso di incubazione, diciamo, siamo entrati in contatto con due fondi di investimento che hanno creduto in quest'idea e abbiamo raccolto in 2 anni, dopo il 2013, in seguito alla costituzione dell'SRL, circa 1 milione di euro. In ultimo ha partecipato un partner industriale che è Mailbox Etcetera, che ci partecipa in capitale da settembre dell'anno scorso e che quindi, diciamo, contribuirà anche a quello che è lo sviluppo industriale. E quanto fatturate adesso? Ma ad oggi fatturiamo circa mezzo milione al mese. Quindi più o meno 6 milioni di euro l'anno? Circa, sì. E quanti siete? Siamo 70 dipendenti, formati da una decina di persone che si occupano di management, quindi di sviluppo del business, e poi il resto è il nostro bacino di corrieri. Allora, in bocca al lupo, avete intenzione di assumere ancora? Sì, ci contiamo ovviamente. In bocca al lupo a lei, visto che la sua giovanissima età, 30, lei l'ha laureato in filosofia? Sì. Bravo. E come l'è venuto in mente, così, guardandosi attorno? No, dico. Ma allora, dove è venuta l'idea? Ma è difficile dire da dove vengano le idee, chissà, non so, forse magari dall'iperuranio, più banalmente dalla noia. Comunque più che l'idea direi che, perché di idee ne vengono tante tutti i giorni, no? E poi l'intenzione di dedicarsi a un progetto, e lì entrano in campo tutta una serie di altri fattori che sono anche semplicemente la quotidianità e la dedizione alla costruzione. Lei non usa i voucher, vero? Perché adesso devo parlare di voucher dopo il traffico. Guardi, li usiamo veramente poco. Beh, adesso li userete veramente niente, perché il governo li ha aboliti. Grazie a Marco Actis, appunto fondatore di Pony Zero. Andiamo sul traffico e poi parliamo della decisione del governo di abolire, per evitare il referendum, l'idea stessa del voucher. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Focus Economia. Oh, Allora, una nota: non volevo offendere gli infermieri per l'idea di servizi civili al posto delle pene detentive per chi viene chiamato, viene accusato e condannato per corruzione. Parliamo di voucher adesso. Verso l'abrogazione dal 2018, via libera oggi al Consiglio dei Ministri al decreto legge che li abolirà. Fino al 31 dicembre potranno essere usati quelli già acquistati. Sentiamo il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni oggi in conferenza stampa. Avevamo una risposta sbagliata, o che con il tempo si è rivelata sbagliata, a un'esigenza giusta. E all'esigenza giusta adesso ci rivolgeremo, concentrando il nostro lavoro nel confronto con anzitutto le parti sociali e poi con il Parlamento, per l'individuazione di strumenti efficienti e moderni per regolare il lavoro saltuario e occasionale. E lo cominceremo a fare nelle prossime settimane, molto rapidamente, basandosi sul tavolo del lavoro presieduto dal ministro Poletti. Io penso che la decisione presa dal governo oggi è una decisione che libera il tavolo da una discussione ideologica che non ci avrebbe aiutato e che non solo non ridimensiona, ma conferma il nostro impegno per regolare in modo moderno e avanzato il mercato del lavoro. E lo faremo individuando uno strumento all'altezza che possa dare risposta a questa esigenza. E io qui vado nei pazzi, come dicono a Firenze, perché voglio dire, lo strumento era uno strumento sbagliato, una risposta sbagliata. Abbiamo appena sentito il premier Gentiloni a un'esigenza giusta. E il governo, alla minaccia del referendum, va a buttare via lo strumento. Io non ho mai visto una cosa del genere. Ma allora allora o dai ragione a chi ha fatto il referendum, perché tanto era sbagliato lo strumento che l'hai cancellato sotto, diciamo, minaccia referendaria. E poi, voglio dire, se no potevi normare, dire: guardate, lo strumento così non funzionava, normiamo e diamo un altro strumento. Ma lasciare un vuoto e dire intanto lo cancelliamo, così eliminiamo il referendum, è difficile non accusare il governo in questo caso di essersi arreso, diciamo, alla minaccia del referendum. Allora era meglio andare a votare e vedevamo quanti erano a favore, quanti erano contrari, quanti erano a favore di una modifica dei voucher, ma un mantenimento dello strumento, pur con più paletti necessari e più restringimenti. Non ho mai visto una cosa del genere. Insomma, intanto lo eliminiamo, poi andremo a regolamentare. Allora, sentiamo anche il ministro Poletti. Non è un cambio di passo nelle politiche del governo sul lavoro, perché il voucher non era materia del Jobs Act. Anche qui è chiaro che il voucher non è materia del Jobs Act, ma non è che tutte le politiche sul lavoro vadano sotto il nome Jobs Act. È un modo per regolare le politiche del governo sul lavoro. Poi non rientrava nel Jobs Act, ma chi se ne frega. Comunque, sentiamo Poletti. Non è previsto un cambio di passo, perché la vicenda dei voucher non era materia definita all'interno del Jobs Act ed era già stata largamente definita dai parlamenti prima e dai governi prima di quell'intervento. Quindi, da questo punto di vista, noi oggi affrontiamo un tema che in ogni caso comunque doveva essere affrontato, perché il tema del lavoro discontinuo, del lavoro occasionale è presente, ha bisogno di una sua regolazione, ha anche delle configurazioni nuove. Basta pensare alle problematiche che emergono, ad esempio, per i lavoratori che hanno a riferimento una piattaforma come sede dell'acquisto e della definizione di una relazione. Quindi, nel momento in cui faremo questa riflessione, dobbiamo anche misurarci con degli elementi di innovazione che la tecnologia ha in qualche modo portato e che intervengono sul tema del lavoro. Quindi la riflessione che faremo non è solo il passato, cioè come rimettiamo mano ad una situazione che si è definita in ragione della scelta che andiamo a fare in questo momento, ma anche la capacità di interpretare gli elementi innovativi che sono indotti dalla tecnologia e dall'innovazione, che hanno bisogno a loro volta di una regolazione. Ora, col massimo rispetto per il ministro Poletti, ma se qualcuno ha capito che cosa vuol dire questa dichiarazione, cioè che siccome ci sono e sono intercorse novità di carattere tecnologico, ma non è che sono intercorse nell'ultimo mese, verranno affrontate in fase di neoregolamentazione. Quando, come, dove, in che modo? Allora, le reazioni. Festeggia giustamente dal suo punto di vista la segretaria della CGIL Susanna Camusso, dice: se come appare il governo farà un decreto nel quale dà risoluzione a noi sui temi, ai quesiti referendari, quindi voucher ma anche appalti, nel momento in cui sarà trasformata in legge, consideriamo questo un grande risultato e quindi esattamente l'obiettivo che ci siamo proposti con i quesiti referendari. Critica invece la decisione del governo della CISL, dice: l'abolizione è incomprensibile, è tutta una scelta politica incomprensibile dal punto di vista del merito. Da anni come CISL abbiamo sostenuto la necessità di interventi precisi e modifiche mirate per evitare il deterioramento del sistema voucher, ma adesso si è passati dal tutto al niente, il contrario di quello che fanno i riformisti, che invece fanno gli inaffidabili. O i lunatici, potrei aggiungere io. E anche la Confcommercio critica, ieri l'ha fatta la Confindustria, oggi la Confcommercio critica in una nota l'abolizione dei voucher. I voucher erano l'unico strumento legale, tracciabile, soggetto a copertura INPS e INAIL e idoneo a coprire prestazioni saltuarie e occasionali anche nelle imprese. La scelta della loro cancellazione, che sembra legata più alla volontà di evitare il referendum che ad una valutazione di merito, crea un vuoto, non tenendo conto che quelle prestazioni sono comunque presenti nelle imprese. E questa è la cosa che mi fa più impazzire, perché adesso, allora, abbiamo detto in mille modi possibili che c'è stato un uso improprio, un abuso dei voucher, che bisognava normarli, renderli ancora più stringenti, ma che lo strumento in sé, qualcuno mi scrive come eliminare le auto perché qualcuno non rispetta il limite di velocità, ma insomma, lo strumento in sé era uno strumento interessante e a mio avviso anche corretto, perché garantiva la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL. Ogni voucher ha, adesso sono utilizzabili, quelli acquistati sono utilizzabili fino al 31 dicembre, ha un valore di 10, 20 o 50 euro, una parte andava, quando avevi in mano il voucher, al lavoratore, l'altra andava invece in contributi. Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, praticamente per il lavoratore occasionale, valeva 7,50 euro, che corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che nel settore agricolo, dove per via della sua specificità il riferimento era il contratto, si considerava il contratto di riferimento. Allora, i benefici per il committente, quando li usa correttamente, sono la legalità, in primo, con copertura assicurativa dell'INAIL. C'era già un tetto, il lavoratore occasionale non poteva superare, avere voucher superiore ai 7.000 euro netti nel corso dell'anno civile, 9.333 euro lordi. Allora, professor Carlo Della Ringa è economista, è stato sottosegretario al lavoro, nostro ospite quando parliamo di dati sull'occupazione, e anche senatore del PD. Buonasera. Buonasera a tutti. Ma lei ha capito perché si è andati a buttare via tutto? Acqua sporca e bambino? Dunque, no, non c'è dubbio che le spiegazioni lasciano il tempo che trovano, sembra proprio arrampicarsi sugli specchi. Come giustamente è stato detto, quello di dire che si può eliminare perché non fa parte del Jobs Act è veramente un argomento che ha le gambe corte, come se solo il Jobs Act contenesse tutta la verità e tutto il resto si può buttare via. E lo stesso, diciamo così, questo comportamento che appare in effetti un po' schizofrenico, che fino a poco tempo prima si faceva un tipo di ragionamento, poi da un giorno all'altro si abolisce tutto, lasciando anche perplessi coloro che erano disponibili a una revisione. Certamente aver avuto, diciamo, il tempo per regolarlo meglio, perché in effetti l'esplosione può nascondere situazioni che, insomma, ma sicuramente nascondeva abusi, non mica stiamo dicendo questo. A parte l'illegalità, che è un conto, e quella doveva essere combattuta con la tracciabilità, e quello è un conto, ma l'altro fosse un uso eccessivo che invece doveva essere fatto attraverso normali contratti di lavoro. Ecco, questa era la prospettiva che si doveva seguire. E non c'è dubbio che... Ma cos'è, questo, secondo lei, Della Ringa, la sindrome del 4 dicembre, cioè da quel referendum lì ogni volta? Sì, no, perché, certo, sa, certo. Allora io domani proporrò un bel referendum per eliminare i controlli dell'etilometro per chi guida, perché mi danno fastidio, e allora a quel punto, se il governo ha paura del referendum, cioè, cosa facciamo? La legge preventiva al referendum, almeno una volta si andava a verificare qual era il voto referendario, bisognava chiarire il quorum, ma anche e soprattutto vedere come proprio del referendum va detto, come qualcuno ha osservato, perché poi dopo, cioè, anche adesso mi trovo in politica e capisco anche il ragionamento politico. Pensi, io immagino cosa sarebbe successo se la Corte Costituzionale avesse ammesso l'abolizione della riforma sull'articolo 18, che lo ha fatto proprio perché hanno fatto male il quesito referendario. Ma se l'avessero fatto giusto, oggi ci troviamo in una situazione in cui accanto al referendum c'era anche questo di ritornare all'articolo 18 magari a 30 anni fa. E cosa avremmo fatto? È una miscela esplosiva questa. E adesso io non voglio fare esercizio di realismo politico, ma qui si tratta proprio di capire cosa è successo in questi ultimi tempi, non solo in Italia, ma nelle altre parti del mondo. Cioè, voglio dire, dal punto di vista politico, sarebbe stato alla fine produttivo andare al referendum e col rischio di perderlo? Ecco, questo mi chiedo. Forse sì, uno ci doveva mettere la faccia e andare, ma attenzione che siamo in una fase in cui effettivamente dopo il 4 dicembre la protesta sembra vincerla. Io ho capito, ma non si può, della Lega, io capisco il suo ragionamento, però c'era un bellissimo pezzo, se non ricordo male, di Pane Bianco, non vorrei confondermi, sulla sudditanza anche intellettuale nei confronti della protesta, dei populismi, delle paure legittime o meno. Insomma, uno deve anche rispondere, perché sennò qua resti schiacciato. Se ogni volta non ti muovi, perché dici, poi mi daranno del... così, dello sfruttatore delle masse, e tu hai paura, non riesci a ribattere su questo. Guardate che questi allora parliamo dei voucher, lo dico a chi sta scrivendo, dei voucher correttamente usati. Abbiamo avuto decine e decine di sms, whatsapp in questi giorni di commercianti, albergatori, insomma mondo del commercio e dei servizi soprattutto, che ci diceva: ma io utilizzavo quella persona per le pulizie 4 ore a settimana, pagavo i voucher, avevo dei lavoratori assolutamente occasionali quando aumenta l'attività nel periodo magari estivo, ma soprattutto nei weekend ho bisogno del collaboratore nel ristorante per quel giorno. Abbiamo avuto decine di case di studenti pagati con i voucher. Ecco, a quelle categorie è chiaro a tutti che torneranno nel nero, vero? Perché insomma, a me basta che ci capiamo tutti, perché quando sento ragionamenti come no, ma che facciamo? Assumiamo a tempo indeterminato lo studente che dà ripetizioni o quello che viene a fare il cameriere per il sabato o la domenica quando il ristorante ha i punti di picco? No, chiedo. No, certamente adesso qualche soluzione si potrà trovare con il lavoro intermittente che era stato ridotto e che è stato il motivo per cui c'è stata questa esplosione di voucher. Qualche rimedio, ma io sto parlando in termini generali di quello che si deve fare in momenti come questo, che sono effettivamente momenti molto complicati in cui dal punto di vista politico credo bisognerebbe fare tutto il possibile per evitare che poi la protesta faccia massa critica e ti travolga. Ecco, allora da questo punto di vista penso che le cose in questi ultimi due anni siano molto cambiate, ma ripeto, no? In Inghilterra, in Stati Uniti, anche da noi, per cui la capacità di creare consenso diventa fondamentale, altrimenti sei travolto. Cioè anche andare al referendum e poi perderlo, sì, hai salvato la faccia, ma è la fine del generale Caster che muore con la bandiera in mano. Allora per creare il consenso, quello che è stato fatto anche dal governo Renzi nella parte finale con le pensioni e quello che si appresteranno a fare adesso, e io penso che alla fine dovremo tornare a un canovaccio di quel tipo lì. Per esempio, la UIL e la CISL erano disponibili a mettersi attorno a un tavolo e fare un progetto di aggiustamento del referendum. Se fosse stato fatto questo, va bene che uno dice si ritorna al solito caminetto, tutto quanto, però voglio dire, se io avessi creato un consenso in modo da isolare la CGIL, vede che oggi dal punto di vista politico sarei magari più in grado di affrontare un referendum cambiando qualche cosa, ma non fino al punto di abolirlo, perché questo è veramente una missione di debolezza enorme. Cioè, voglio dire, tra i vecchi tavoli della... che la minaccia è credibile e si arrende ancora prima di fare la guerra. Esatto, la guerra e quindi, fatta, ma e quindi fatta poi alla prossima minaccia alzerà ancora di più la posta. Non c'è dubbio, andando avanti così, certamente, ma si ritornerà anche con l'articolo 18. Allora a quel punto non è che poi chi starà al governo debba morire su quella cosa lì, dovrà porre le condizioni in modo da isolare le richieste estreme e radicali che ci riporterebbero indietro di 10-30 anni. E poi, andare a votare, però. Cioè, andiamo a fare il referendum, voglio dire. Dopo un certo punto, sì. Piuttosto dopo che calare le braghe in questo modo, meglio il tavolo di concertazione a questo punto di una volta, poi c'è la CGL, non ci voleva stare, fai la concertazione con la CISL e la UIL, e almeno hai una parte del sindacato che, come ha dichiarato anche oggi, dice no, regolamentiamoli in maniera ancora più stringente, ma non riportiamo nel nero alcune categorie. Perché questo è stato fatto con la scala mobile a suo tempo. Altro periodo della ringa e altra capacità di visione anche da parte delle leadership sindacali, visto che mi cita la scala mobile, se non ricordo male era Lama il segretario della CGL, no? Per cui stiamo parlando di un altro mondo. Grazie anche, ma lei a questo punto, senatore, in una battuta, non si sente un po' a disagio dentro un PD che insomma quantomeno mostra una solidanza culturale nei confronti della CGL che non vedevamo da tempo? Allora mi coglie nella parte sensibile. Guardi che a me capita ogni tanto di andare all'estero, di parlare in giro, e tutti riconoscono che il PD, il partito, è il partito che dà un po' di garanzia, di stabilità e di riferimento anche a livello internazionale, perché andiamo a vedere, da una parte bisogna abolire l'euro, dall'altra parte bisogna fare due monete, insomma la gente si spaventa molto all'estero quando sente fare questi discorsi. Quindi lei ci sta perché è meno peggio, se ben capito. Ma anche questa roba qui è il meno peggio, ma meno peggio un po' brutto, perché poi la gente capisce poco. E invece la politica bisognerebbe farla un po' con più senso, essere un po' più avvertiti e preparare le cose, essere pronto a fare le guerre, ma non arrivare all'ultimo minuto e praticamente arrendersi, buttare giù le braccia e arrendersi. Senza aver neanche la combattuto. La gente non capisce. Va bene, grazie anche al professore, nonché senatore del PD, Carlo Della Ringa. Bene, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Come sempre un ringraziamento venerdì anche a Barbara Bianchi e a Mauro Del Corno per l'assistenza anche questa settimana in redazione e in regia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, come sempre a partire da chi dovrà passarlo lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17. Radio 24, libera la voglia di fare.